in primo piano. Buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24, oggi un po' breve, quella italiana, poi c'è quella europea e semmai ci rifaremo domani. Abbiamo, penso, giusto il tempo di vedere le prime pagine dei principali giornali, come sempre facciamo, e partendo dal Corriere della Sera che titola sul famoso decreto mille proroghe che è stato approvato ieri. Il titolo del Corriere della Sera è il pasticcio degli emendamenti, con una vignetta di Giannelli con Letta che scrive alla sua macchina da scrivere e dietro di lui Napolitano che gli dà istruzioni. Il titolo è: il governo a Letta e il presidente Detta. C'è un editoriale, ieri abbiamo letto quello di Ferruccio De Bortoli, che più o meno era sullo stesso tema, cioè su questo vizio di inserire nei decreti, che quindi vengono approvati abbastanza velocemente, mille piccoli provvedimenti che non c'entrano nulla con lo spirito originario del decreto. E oggi l'editoriale di Dario Di Vico, ma più o meno il tema è lo stesso: legge convoglio, micro interessi, potere caotico di non decidere. Vi leggo le prime righe. Perché nessuno in Senato si è alzato a ricordare che esiste una sentenza della Corte Costituzionale, per la precisione la 22 del 2012, che giudica inammissibile l'introduzione di emendamenti eterogenei nel testo dei decreti legge? La domanda è più che legittima, anche perché alla Camera è dal 97 che vige questo regolamento, senza che sia mai stato esteso all'altro ramo del Parlamento. La verità è che l'incredibile vicenda del decreto Salva Roma, approvato dal Parlamento con richiesta di fiducia da parte del governo e poi bocciato dal Quirinale, ha lacerato molti veli davanti all'opinione pubblica. La debolezza del governo Letta è apparsa in tutta la sua gravità. Veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. Anche in questo caso il tema principale, che guida anche il titolo principale del Sole 24 Ore, è quello del mille proroghe, però il Sole 24 Ore si concentra, diciamo, su, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, con questo miliardo per il lavoro. Ok al mille proroghe, rinvio per gli sfratti e la web tax slitta al 1 luglio. Questi i temi un po' che il Sole 24 Ore considera principali, e poi tutti gli approfondimenti dalla pagina 3 alla pagina 5. C'è anche un approfondimento in prima pagina di Isabella Bufacchi che fa un'analisi di tutte le emissioni dei bot dell'anno che sta finendo. Asta bot a segno, questo prende spunto dall'ultima asta dei bot, quella di dicembre, tassi in rialzo per i semestrali. Il 2014, titola però l'articolo di Isabella Bufacchi, chiede ancora una guardia alta. Sul Sole 24 Ore vi ricordo che come ogni sabato è in edicola legato al Sole 24 Ore Plus 24, che è l'approfondimento, il tabloid di approfondimento sulla finanza. Il titolo è, visto che appunto mancano pochi giorni alla fine del 2013, dove investire nel 2014, con un forum dei gestori che cerca di darci un'idea su quali sono le azioni, e il consiglio di diversificare sui titoli europei privilegiando tecnologie bancari, e poi un approfondimento sui bond, nei portafogli più spazio al comparto high yield e corporate, e quanto alle valute c'è questa via libera al dollaro, e vedremo anche sulla questione valutaria un articolo sulla Repubblica. Appunto la prima pagina della Repubblica in realtà titola su una questione diversa che è molto politica, alla quale poi sono dedicate praticamente 7 pagine all'interno: rimpasto Renzi in calza Letta. E poi c'è un richiamo nel sommario alle parole di Napolitano. Il capo dello Stato ieri ha detto a entrambe le Camere, come abbiamo visto, come ci ha ricordato Dario Di Vico, in realtà esistono già delle regole che proibirebbero a entrambe le Camere, sia la Camera dei Deputati che il Senato, di snaturare i decreti, e appunto Napolitano ha ricordato ieri più rigore sui decreti. C'è poi un'altra notizia che sottolinea Repubblica nel sommario per quanto riguarda questo mille proroghe, che sono stati sbloccati quei 6 miliardi di fondi dell'Unione Europea che serviranno a tantissimi scopi. Lo ricordava anche ieri il Sole 24 Ore, che era una delle parti più interessanti di questo decreto mille proroghe. Ma vi dicevo, l'analisi sulle valute di Federico Fubini, la corsa del super euro che lascia l'Italia al palo. L'articolo prosegue poi a pagina 13, è quasi un'intera pagina, vi leggo le prime righe. Nato a Genova da una famiglia di migranti italiani ma ministro delle finanze del Brasile, Guido Mantega è stato il primo a rompere il tabù. Nell'autunno del 2010 10 disse che nel mondo era in corso una guerra valutaria. Ciascun paese, ognuno dei grandi blocchi economici, cercava di svalutare per rendere più competitive le proprie esportazioni. Naturalmente una pratica che in Italia conosciamo bene, siamo andati avanti per molti anni con queste svalutazioni competitive. Ora però, siccome facciamo parte dell'euro, dell'area euro, non possiamo più farlo, e lo spunto dell'articolo di Federico Fubini è proprio che ieri l'euro, questo super euro ormai possiamo definirlo, ha raggiunto un nuovo record. Sulle altre valute, in particolare naturalmente, interessa il cambio sul dollaro. Vediamo la prima pagina della Stampa, che anche in questo caso è dedicata al mille proroghe, un tesoretto per imprese e lavoro, quindi anche qui ridistribuiti il tema dei miliardi dei fondi dell'Unione Europea, ridistribuiti quei 6 miliardi che rischiavamo di perdere, e poi tutti gli altri approfondimenti. La fotonotizia però della Stampa è unica, diciamo, nessun altro quotidiano parla di questa vicenda. È una foto di una nave rompighiaccio russa che è intrappolata nel ghiaccio antartico, il dragone cinese contro la trappola di ghiaccio. Infatti nell'operazione di soccorso di questa unità russa bloccata nell'Antartide, all'operazione di soccorso partecipa anche una nave cinese, quindi a volte appunto ci si scontra su altre cose, ma poi su operazioni come queste, paesi che nominalmente sono spesso protagonisti di faide diplomatiche, in realtà poi magari uniscono le forze, e trovo che sia sempre una buona notizia. Il Messaggero titola Salva Roma ok, scontro sull'IRPEF, perché come ricordava Di Vico, questo decreto Salva Roma ritirato alla vigilia di Natale in realtà doveva essere in qualche modo reintrodotto, almeno per quanto riguarda appunto le norme che salvano il bilancio della capitale, che è a rischio default, e quindi ovviamente il Messaggero, che è il quotidiano romano per eccellenza, titola su questo e poi ricorda che Napolitano ha bacchettato il governo e le Camere, più rigore su decreti e emendamenti. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Messaggero, è l'unico quotidiano che lo riporta in prima pagina, altri ne parlano, l'unico quotidiano insieme ad Avvenire che lo riporta in prima pagina, poi altri quotidiani ne parlano all'interno, questa bomba che ieri ha colpito Beirut dopo anni quasi di relativa pace, la capitale del Libano ancora una volta viene scossa da un attentato, e ieri poi tra l'altro, ricorda il Messaggero, è stato ucciso anche un ex ministro. Vi segnalo anche dalla prima pagina un approfondimento sulla questione Stamina, perché ieri la novità di cronaca è che ieri gli ospedali di Brescia hanno reso pubbliche le cartelle cliniche, 36 cartelle cliniche, da cui si evince che non ci sono prove di miglioramenti nei pazienti che erano stati trattati con questo metodo di Vannoni. E poi vi segnalo il commento di Silvio Garattini, farmacologo, e si intitola "Non esiste un elisir uguale per tutti, ora si fermi il mercato delle illusioni". Vi leggo le prime righe, poi l'articolo continua a pagina 18. Le conclusioni degli ospedali di Brescia su 36 pazienti trattati con il cosiddetto metodo Stamina possono aiutare a mettere la parola fine a una situazione che sta coprendo di ridicolo l'Italia davanti alla comunità scientifica. Passiamo alla prima pagina del giornale, spegnere Napoletano, qui il titolo si riferisce a quell'appello fatto dai parlamentari di Forza Italia. Sapete appunto il partito di Berlusconi che si è scisso, c'è la parte guidata da Alfano e poi Forza Italia appunto ancora guidata da Berlusconi, che hanno suggerito i parlamentari di Forza Italia di non ascoltare il tradizionale messaggio di fine anno del capo dello Stato. Ma c'è anche un articolo che ho trovato interessante, richiamato in prima pagina e poi che trovate a pagina 18, da Marchionne a Richard Branson, il segreto dei grandi svegliarsi con le galline. Oltre a Richard Branson si parla anche di Tim Cook, che ha preso il posto di Steve Jobs come numero uno di Apple dopo appunto la scomparsa di Steve Jobs, e poi Anna Wintour, che è direttore di Vogue America, anche lei si alza molto presto, fa molte cose prima dell'inizio della giornata, tra le quali parliamo alle 6 del mattino circa, fa un'oretta di tennis e poi si fa pettinare con il suo famigerato famoso caschetto. La prima pagina di Libero, arruoliamo gli immigrati, questo è un titolo a tutta pagina che riprende innanzitutto la presa di posizione di ieri di Mario Mauro, ministro della difesa, che ha bocciato lo Ius Soli, e invece di dare la cittadinanza a chi nasce qui cambiamo la Costituzione e concediamola a chiunque presti servizio nelle forze armate. E c'è poi un intervento del direttore Maurizio Belpietro, che fa un bilancio su quanto sono costati gli esodati, che sono una conseguenza della riforma delle pensioni volute dall'ex ministro Fornero, Elsa Fornero, che era ministro del lavoro nel governo Monti. Gli esodati sono già costati 10 miliardi. Veniamo alla prima pagina dell'Unità. Basta con i decreti salva tutto, anche in questo caso il titolo è a tutta pagina. Massimo rigore sugli emendamenti. Questo è il messaggio di Napolitano, e anche l'Unità riprende anche la reazione del Presidente del Senato Grasso, Piero Grasso. Interverrò, ma dal governo arrivati troppi sì. C'è infatti una sorta di polemica tra le istituzioni, perché come diceva Di Vico, il Senato non avrebbe dovuto, ma in realtà manca il regolamento attuativo di quella legge, di quella sentenza della Corte Costituzionale, decreto attuativo che invece c'è alla Camera, ma sappiamo che poi anche alla Camera passano questi decreti. Insomma, il Senato forse non avrebbe dovuto approvare quel famoso decreto salva Roma, ma in realtà l'ha fatto, e ora Grasso dice si difende dalle velate accuse di essere complice di questa pratica, che anche Napolitano ieri ha sanzionato, e ha detto tutto sommato, insomma, è stata posta la fiducia su questo governo, non sarà solo la responsabilità del presidente del Senato, cioè mia, se è stato fatto questo pasticcio. L'Unità, come ogni sabato, all'Unità viene allegato il settimanale Left. La copertina è dedicata a Gunter Pauli, che viene definito il teorico della blue economy e spiega ancora una volta la sua rivoluzione sostenibile. Sapete che, forse non lo sapete perché non è stato poi così un best seller, ma Gunter Pauli, che è svizzero di origine, dirige un istituto in Svizzera che appunto studia tutte le evoluzioni di un'economia che lui chiama blu, ma che sostanzialmente è un'economia più sostenibile, e ora le cerca di spiegare. Sicuramente un uomo molto tenace, che continua a sperare che le sue teorie facciano, le sue ipotesi, le sue proposte facciano breccia anche a livello politico. Il manifesto, i 10 emendamenti, la foto è di Napolitano visto di spalle con in mano dei fogli e una penna, probabilmente appuntava, segnava tutto quello che secondo lui non va in questo maxi decreto. Napolitano ordina alle Camere di non inserire nei decreti legge troppe modifiche rispetto ai testi presentati dal governo, altrimenti li respingerà. Grasso e Laura Boldrini, Presidente della Camera, preparano il bavaglio ai regolamenti e il Parlamento va avanti nel nulla. Questa è la sintesi che il manifesto fa di quello che sta succedendo nei nostri due Parlamenti a fine anno. Vi segnalo la prima pagina del Foglio, perché prima ho detto che solo il Messaggero e Avvenire mettono la notizia di Beirut in prima pagina, lo fa anche il Foglio in realtà, con un'analisi. Uno scoppio in centro, a Beirut ucciso un politico anti-Assad, è la vendetta domestica di Hezbollah. Questa l'analisi del Foglio. Chatà, l'ex politico, l'ex ministro appunto ucciso, era un sunnita vicino a Hariri. Il processo dell'AIA contro il partito di Dio, cioè Hezbollah, e gli effetti della violenza di Damasco. È interessante appunto questa analisi, anche perché sicuramente non è una buona notizia questo rinfocolarsi della violenza in una terra che sembrava finalmente un po' pacificata. La prima pagina del Fatto Quotidiano: il governo Letta è in agonia, al colle dalla colpa Grasso. Abbiamo visto prima appunto questa polemica tra Napolitano e il presidente del Senato Grasso. L'editoriale, come sempre, di Marco Travaglio, intitolato Ops, che insomma riassume ancora una volta tutte le critiche che Marco Travaglio fa a questo governo Letta. Ma vi segnalo dalle pagine interne del Fatto Quotidiano un articolo di Andrea Scanzi sul famigerato blackout di Cortina, e sapete che ieri sia su Repubblica che sul Corriere noi non l'abbiamo citato, ma forse ne avrete sentito perché ha avuto poi molta eco l'intervento di Mauro Corona, lo scrittore, che diceva che bello il blackout, e Andrea Scanzi con molta ironia commenta questi interventi. Vi leggo le ultime righe: il passatismo nella letteratura o il cinema funziona sempre. Quando però si indulge al rimpianto, occorre non abusare. È duopo fare distinguo e non sfociare nel ridicolo. Avere nostalgia del vinile è un conto. Sognare un nuovo buio per riscoprire la luce partendo da un episodio marginale di cronaca è un po' come sperare che un asteroide ti cada in testa per farti passare l'emicrania. E poi, leggendo questo articolo di Andrea Scanzi, che è richiamato in prima pagina, mi è caduto l'occhio su un intervento di Massimo Fini, che ho trovato molto interessante. Si intitola "Siamo sicuri di essere superiori all'Iran". Vi leggo la prima parte, le ultime righe. Nella conferenza stampa di fine anno, un giornalista giornalista d'area radicale, ha chiesto al Presidente del Consiglio se l'Italia non fosse troppo morbida con l'Iran. Letta ha risposto in diplomatichese, ma una cosa interessante l'ha detta. L'Italia può essere un buon mediatore con l'Iran perché entrambi veniamo da grandi culture millenarie e possiamo quindi intenderci. L'Iran, ricorda Massimo Fini, è l'antica Persia. E poi le ultime righe. Cosa vogliamo ancora? Forse se la smettessimo di considerarci il bene, anche il male sarebbe meno aggressivo e diffidente nei nostri confronti. Come sempre, insomma, stimolante, polemico sicuramente, controcorrente Massimo Fini, ma lo trovo appunto sempre, sempre interessante. La prima pagina dell'Avvenire: il Colle richiama tutti, decreti come si deve, e poi naturalmente anche qui si riassumono le misure contenute nel mille proroghe. Addirittura l'Avvenire ha una fotonotizia in prima pagina che fotografa proprio la bomba esplosa a Beirut. Terrore a Beirut, ucciso l'ex ministro anti-Assad. Autobomba in centro, 6 morti. Avvenire ricorda anche la reazione di Damasco, cioè della Siria, che ha subito detto: noi non c'entriamo. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, temo sia l'ultima segnalazione che riusciamo a fare, è una intervista a Prandelli, l'allenatore della nazionale, che dice: non siamo i migliori, ma possiamo battere i migliori. Brasile, Argentina, Germania e Spagna sono le favorite, leviamoci dalla testa l'idea di essere noi più forti. Rossi e Balotelli si integrano molto bene, Mario avrà la grande occasione di dimostrare che è un campione. E per il pallone d'oro, dice Prandelli, ho votato così: 1 Pirlo, 2 Ronaldo, 3 Messi. Andrea Pirlo, ogni situazione di gioco. Questa intervista la trovate alle pagine 2 e 3 della Gazzetta. Era veramente l'ultima segnalazione, domani, come dicevo, avremo più tempo per gli approfondimenti. Ora le informazioni sul traffico.